di avere 60 dB, ma arriva l'antenna, ce n'hai 60, arriva la centralina, ne hai 20 e non riesce. Allora ci mettono un amplificatore, i signori tecnici, per aumentare il segnale, però a quel punto amplificano anche i disturbi. Se c'hai il cavo aperto si fa l'antenna, per cui molti problemi se li creano questi impianti fatti alla me ne frego, diciamo. Ma tu, da parte mia, secondo me non stai dando nessun problema. Vabbè, grazie, mi ha rincuorato. Avanti Giulio, dai. Ok, ciao Gianni, ciao Roberto e ciao Tino. Avanti Tino. Aspetta un attimo, Roberto. Dimmi tutto, ciao Giulio, ben sentito. Guarda, questa migliore la radio e questa è l'M93. Sì, sicuramente è molto più forte di prima, molto molto meglio. Perché quello là è normale, bisogna che lo modifichi. Bisogna cambiare la capsula e e fargli quella modifica là, per amplificare di più. Ma se va bene questo, adesso uso questo, non la giugana va. Dai, già va bene Natalia, non ti preoccupare. Tu che buona, ok, facciamo riprendere a Giulio, non so se c'era prima Giulio o se è entrato adesso, perché Tino si è allontanato. Già lo so, Tino, l'ho sentito in sovrammodulazione. Ci siamo sentiti anzi in sovrammodulazione. Ciao Natalia, sì, questa la radio più pulita va bene così, dai. Almeno non è sporca come quella che avevi prima, che era tutta tutta così era. Adesso almeno è pulita, non è fortissima, però è abbastanza chiara, già si capisce bene. Vai Gianni. Sì, avanti lui di cambiare la capsula, come ha fatto Bulldozer, che gli aveva messo la capsula, guarda come esce Gianni con lo stesso microfono. Gli avrà fatto quella modifica, gli ha cambiato la capsula, esce un bel forte. E tutta la capsula da cambiare, mettere la capsula come si deve. E infatti l'altro microfono, quello ce l'ha la capsula, vediamo un po', e se no me la compro una da Fusaro e gliela metto e poi gli faccio anche la modifica per amplificare di più. Natalì, si sente anche la televisione, cosa devi amplificare? Questo è l'M93 per Omi. Va bene, si sente anche la televisione, va bene. Gara. Va bene, dai, rimango con Rix, io, ciao a Giulio, riprendi Roberto. Sì, ciao, dai. Ok, no, ho detto a Gianni, l'ho un po' rincuorata, non preoccuparsi. Il digitale non è come l'analogico, è un altro sistema completamente diverso, ci sono diversi parametri per il coso. È tutta un'altra musica, un altro sistema di elaborazione dei dati. Il B150, qualcuno di voi lo conosce? Sono della dettagli, sì. Stavo aprendo il cassetto, siccome faccio un sacco di roba, ci avrò 20 microfoni, neanche me ne ricordavo tutti questi microfoni. Infatti adesso ho l'M93 del Mubicom, quello che mi ha dato Natalino, e lo do a Bracco. Nemmeno mi ricordavo che era di quel baracchino. E più c'è anche questo amplificatore, ho visto un B150, ho visto le caratteristiche da 100 watt, quello vero, è possibile? Sì, sì. Ma è un giocattolino, è piccolino, pensavo fosse il VHF. No, ho una domanda, scusa, un'interrogazione, Claudio, perché ero convinto fosse un VHF, invece è per la banda cittadina. Che cosa? A te l'avevo dato quello linearino piccolino per le V. No, io ce l'ho quello della micro 7 da 200 watt per le VHF. No, quello piccolino mi pare era 50 watt, 80 watt, perché adesso ero convinto quello che avevo fosse quello lì, delle V, siccome me l'aveva dato mio zio tanti anni fa. Invece questo è il B150, però ne avevo uno, mi sembra l'avevo dato a te, ho detto prova, dopo non me l'ha tutto da tenere, tanto non mi serve. No, mi ricordi io no, vabbè, mi ricordi io no, non adesso sicuramente, forse abbiamo fatto qualche prova del genere, ma molto tempo fa, il periodo di quegli scambi che abbiamo fatto del vintage eccetera, ma io non ne ho B150, non ne ho, forse me l'hai dato a provare, te l'ho restituito, non lo so, io ho quello micro 7 200 watt, però è per le VHF, poi ho quello, come si chiama, 747, e poi vabbè ho gli amplificatori grandi FF, non ne ho altri amplificatori, no, scusa, non mi sono spiegato bene. Allora, il B150 è una cosa, però io mi ricordo tanti anni fa, saranno 15 anni fa, 13, 14 anni fa, mi sono trovato questo amplificatore per le vuela di mio zio che lo usava quando era tramarillo per comunicare con la moglie, ma io sto parlando, qui ci voleva 30 anni fa, e ti ho detto, te prendi, te l'ho provato se funziona, mi sembrava un 80 watt per le vuela, della CTE dovrebbe essere però, e poi non so che fine ha fatto, te l'avrei tenuto, ce l'hai buttato, non me ne ha fottuto, da tanto non mi serve. Robè, e continuo a ribadire che non mi ricordo se... Se ce l'ho io, boh, no, io non butto mai niente, anche se non funzionano li tengo a pezzi di cambio, però c'ho una scatola sul mansarda, può essere che sia lì, se non ce l'ho qua vuol dire che non funzionava, però se ce l'ho io è sul mansarda, è quella scatola dove tengo tutta la roba a pezzi di cambio, capito? Non ti preoccupare, già se c'è qua, dai. Ok, faccio girare, io rimango in ascolto e sto facendo cosa, avanti Giulio, riprendi. Ok, d'accordo. Sì, no, il B150 comunque per la 27, poi c'è il 150 watt, poi c'è il B300 300 watt, e dunque. Vabbè, ma a parte quello, la cosa più importante è che oggi a Sassari, nessun contagio e nessun decesso, per cui sono 2 e 2 in tutta la Sardegna, 2 decessi e 2 contagi. Speriamo bene, che è la cosa più interessante, altro che baracchino, Va bene, dai, ripresi già. Gianni. Comunque, qua, chiudendo il discorso, non è che te lo sto chiedendo, ci mancherebbe, non me ne ha funzionato, te l'ho regalato, era soltanto una considerazione che ero convinto che questo che avessi io era per le V, invece non entra nulla per le V, poi mi sono ricordato, era, te l'avevo dato, credo, poi non me ne frega niente, ti ripeto, anche se è rotto o funziona non mi interessa, tanto non mi serve. Adesso l'ho tirato fuori, ho detto, questo da dove è uscito, ho detto, deve essere per le V, e poi ho guardato, no, questo c'è scritto AM, SSB, infatti era per la cosa, per le cose, come si chiama, per la banda cittadina, ma penso di un centinaio di watt, Giulio, quel giocattolino, no? No, lo vendono per 150, poi te ne danno 100, poi te ne danno 120, che ne so, dipende da tante cose, no? La resa del lineare dipende da tante cose, innanzitutto dalla stazione e dall'antenna che uno ha, secondo dalla potenza della radio, se uno lo alimenta contro privato magari si sporca anche, lo sappiamo, no, come funziona, tutti i lineari sono così, no, comunque loro lo vendono per 150, ma suppongo che 150 non li dia mai, nemmeno i grossi lineari, quelli che ti dicono questo da 500 watt e poi alla fine te ne dati 350 massimo, esagerando 400, perché alla punta massima per cui è stato venduto non ci arriva mai, questo è il contatto e questo vale per tutti i lineari. Vabbè, là, comunque non si salisce da due lineari, almeno a me specialmente il lineare che se ne frega. Vediamo se è rientrato Gianni. Sì. QTC per Roberto. No, non vi ho sentito perché mi stavo attendendo. Cos'è stato fatto? No, non ho capito più nulla. Quando era il 15? Sì, adesso era il 15. Ho fatto quello che è successo. Scusate un attimo, ho risposto su un altro canale, scusate un attimo. Ok. Mi sembra che la bambina che si è guardato che ho lanciato a te, Gianni. Vabbè, dai. Vediamo un po' se chi c'è rimasto qua, su questo canale. Giuseppe, tu ci sei? Giuseppe, non c'è? Chi c'è rimasto? Ma noi solo siamo rimasti, Gianni, io, tu e Roberto che sei andato. C'è Calvino un po' che mi sta spatterando. Aspetta un attimo, guardo dove. Giulio, ci sei Giulio? Hola.